Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, iniziando soprattutto da quello che è stato l'intervento, da un lato, del Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni in audizione al Senato sulla legge finanziaria, ma non solo, perché Saccomanni ha parlato di tutto, anche dell'IMU e di quelli che sono poi i dati invece della Banca d'Italia. Banca d'Italia, che sarà tema di approfondimento anche oggi a Focus Economia. Perché lo dico? Perché oltre ad avere segnalato un debito che continua ad aumentare, Banca d'Italia cita anche un dato che riguarda gli immobili, ossia che per la prima volta dal 95, da quando esistono le tabelle, nel prezzo della casa il valore delle abitazioni delle famiglie italiane è calato di quasi il 4%, cioè complessivamente nel 2012 è a 4.832 miliardi il patrimonio immobiliare complessivo degli italiani, vale il 4% in meno rispetto all'anno prima, sono 194 miliardi in meno di valore degli immobili. Ma la cosa più importante è che questo calo del valore, non più delle compravendite degli immobili, è proseguito anche nei primi sei mesi del 2013, meno 2%, ed è la prima volta, ripeto, da quando esistono le serie storiche della Banca d'Italia stessa, dal 1995. Tra l'altro, da questo punto di vista, la Banca d'Italia ha fatto anche notare come la crisi abbia eroso la ricchezza delle famiglie di quasi 10 punti percentuali da quando è iniziata, meno 9%, praticamente dal 2007 ad adesso. Parleremo anche della moneta virtuale, il Bitcoin, perché doccia fredda oggi, ma perlomeno da quello che abbiamo capito, in arrivo sul Bitcoin in Europa, perché l'EBA, l'autorità che regolamenta il settore bancario, pubblica un documento in cui mette in guardia dai rischi di violente fluttuazioni delle valute elettroniche, come del pericolo che i portafogli digitali in cui si registra la proprietà di questi titoli possono essere preda di hacker e pirati informatici, e anche di questo parleremo. Vedo già molti sms, alcuni di insulti pesanti, vabbè. Ancora sulla vicenda dei forconi, guardate, oggi non c'è cronaca, ne abbiamo parlato per 3 giorni di fila, so benissimo che alcuni di voi non sono d'accordo con la posizione che abbiamo espresso, ma abbiamo avuto anche ospite il leader dei forconi siciliani. A noi interessa, oltre alla protesta, arrivare anche a delle forme di proposta praticabili, non diciamo quelle di pancia in cui si dice blocchiamo alle frontiere il cibo o i capi di bestiame. Questo voglio dire, non è una proposta secondo noi seria. Dopodiché ognuno la pensi come vuole, avrò deluso alcuni ascoltatori. Noi non smetteremo di denunciare, questo ve lo posso garantire, e anche oggi qualche notizia ce l'abbiamo. Invece gli sprechi della pubblica amministrazione, intesi soprattutto come costi ingiustificati della politica a qualunque livello, quindi regionale, nazionale, comunale e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo quindi di casa, del rapporto, dell'intervento del ministro Saccomanni, che molti di voi criticano, ritengono troppo morbido, troppo, diciamo, poco incisivo, anche dell'intervento del Presidente del Consiglio sul costo del finanziamento ai partiti, perché su questo finanziamento pubblico ai partiti il decreto contiene qualche novità rispetto alle prime anticipazioni. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, mentre per quello che riguarda la borsa siamo a uno 0,14% di rialzo, meno 0,13 Parigi, meno 0,10 Francoforte, Londra invariata, l'America invariata anch'essa. Tra i titoli, Autogrill più 3,50, Snam più 3%, Luxottica più 2,90, Mediolanum più 2,20, Campari più 2,12, Mediobanca più 1,5 come Fondiaria. Sai chi va male? Buzzi Unice meno 2,77%, già ci chiedete nel Monte dei Paschi. Monte dei Paschi perde in questo momento il 2,60%, ancora, anche perché continua il braccio di ferro tra la fondazione da un lato, che vorrebbe posticipare l'aumento di capitale alla seconda metà dell'anno prossimo, e invece il Consiglio di Amministrazione, in cui sia il Presidente Profumo che l'amministratore delegato Viola hanno minacciato di rimettere il mandato se non dovesse partire l'aumento di capitale come stabilito. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi ha fatto notare che lo slittamento dell'aumento di capitale a maggio, come proposto dalla Fondazione per tentare una possibile cessione della sua quota, comporterebbe un costo aggiuntivo certo di almeno 120 milioni. E dice il CDA del Monte dei Paschi, non ci sembra corretto, per un desiderio e una richiesta della Fondazione, scaricare questo costo su tutti gli azionisti. Le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le notizie internazionali, dagli Stati Uniti con un'ampia maggioranza a questo punto, 332 sì e 94 no, bipartisan, nel senso sia repubblicani che democratici, la Camera dei rappresentanti ha ratificato l'accordo raggiunto ieri, di cui abbiamo parlato ieri, sul budget, sulla legge finanziaria americana, 169 repubblicani a favore e 163 democratici per la precisione. Ora la legge passa al Senato per il via libera definitivo. Dagli Stati Uniti e l'Europa, l'Irlanda è uscita oggi ufficialmente dal programma di salvataggio della cosiddetta Troica, quindi Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetaria. Tre anni fa fu concesso, lo ricorderete, un pacchetto di aiuti per 85 miliardi di euro. L'Irlanda, con le riforme fatte, a questo punto esce dall'intero percorso di programma, per essere precisi, di salvataggio. Volete sapere com'è lo spread italiano? Ma è stabile a 225 punti, quindi su livelli relativamente bassi, è il caso di dire. Ancora, per quello che riguarda il rendimento sui BTP a 10 anni siamo al 4,09%, però l'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato che l'outlook resta negativo, la prospettiva per l'Italia resta negativa, confermando il volto dell'Italia a triple B. E ancora, per quello che riguarda invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha voluto commentare le valutazioni delle agenzie di rating, ma ha smentito voci di ulteriori abbassamenti del voto sul debito italiano. Nonostante la conferma delle prospettive negative di Standard & Poor's, ribadisce il Ministero dell'Economia e delle Finanze che il 2014 sarà un anno in crescita rispetto a quest'anno. Aggiungo io, non ci vuole molto, il problema è capire di che crescita parliamo, perché il governo stima l'1%. Anche ieri ulteriori organismi internazionali, l'OCSE ma anche Standard & Poor's, dicono non andrete oltre lo 0,4%. Beh, insomma, nel qual caso da una recessione passeremo a una stagnazione o giù di lì. La crescita è un'altra cosa nella vita. Ancora per quello che riguarda la Banca d'Italia, ne parleremo più avanti. Comunque il debito a ottobre ha toccato un valore nominale record di 2.085 miliardi ed è ancora in aumento rispetto ai 2.068 miliardi del mese precedente, ed è in crescita di circa 95 miliardi da inizio anno. A dicembre dell'anno scorso infatti il debito italiano era di 1.989 miliardi, siamo a 2.085 miliardi. A Altri dati della Banca d'Italia, fermo restando che, come anticipavo, della ricchezza delle famiglie, o meglio, della riduzione della ricchezza delle famiglie italiane da un lato e del calo dei valori degli immobili per la prima volta dal 95, parleremo nella seconda ora del programma. La Banca d'Italia fa notare anche che è calato comunque il debito delle amministrazioni locali, sceso a 109 miliardi rispetto ai 115 miliardi di un anno fa, che però le entrate fiscali hanno segnato nei primi 10 mesi dell'anno un calo. Nel periodo gennaio-ottobre c'è stato il gettito, è stato di 307, quasi 308 miliardi contro i 309 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, 1 miliardo e 4 in meno, sostanzialmente in 10 mesi. E poi la CGIL, che nella sua ricerca fa notare come il 46% dei pensionati stenti ad arrivare a fine mese, il 37% dei pensionati stia tagliando i consumi alimentari, meno acquisti via il superfluo, resistono però i giochi e le lotterie. E poi un rapporto di Cittadinanza Attiva che stima in un costo non da poco curare se stessi o un parente se si è affetti da patologie croniche o rare. Sono in media 1000 euro in un anno per visite ed esami a domicilio e circa 650 euro per farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco perché il rapporto di Cittadinanza Attiva parla quasi di un lusso avere o un parente o essere ammalati di malattie croniche. Non stiamo parlando di malattie rare e basta, perché al primo posto viene collocata tra queste malattie croniche, faccio un esempio, l'artrosi. Adesso passiamo subito al primo tema, visto quello di cui ci siamo occupati fino ad ora. Vale anche il caso ricordare alcune notizie che sono uscite relativamente a scandali, ma anche a chi decide di ripagare per il mal tolto. E poi iniziamo con questa lunga e anche un po' articolata pagina a cavallo tra il ministro Saccomanni e il premier Enrico Letta, in cui si parlerà anche e soprattutto di finanziamento pubblico ai partiti. 349-238-6666 per gli sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, ancora una risposta sui forconi. Sappiamo tutti, l'abbiamo detto moltissime volte, che queste manifestazioni palesino, in molti casi, non sempre, c'è anche chi ha voglia di far casino e basta, un disagio profondo del paese, disagio che stiamo raccontando da anni, anche quando, diciamo, leader politici molto votati dagli italiani raccontavano che questo disagio era solo colpa dei giornalisti, era solo colpa dei pessimisti, che non è vero, che i ristoranti erano pieni e quant'altro. Per cui abbiate pazienza, ma con un pizzico di immodestia, non dovete spiegarlo a noi che c'è il disagio nel paese, i dati li leggiamo tutti. C'è chi anche scriveva fino a qualche tempo fa che lo facevamo apposta, che eravamo sempre pessimisti, che eravamo sempre negativi, che eravamo dei giornalisti comunisti, no? Allora, altra cosa è però dire che per questo blocchiamo le strade con movimenti che puntano a saltare il palazzo. Io non ho capito, mi dispiace se sono limitato, quale sia l'alternativa e la proposta su questo, ok? Per me resta la linea del voto come linea principale, e poi anche delle manifestazioni autorizzate, che però non sono la manifestazione selvaggia, perché io non capisco perché ci debbano andare di mezzo cittadini normali. Si può manifestare e anche bloccare il traffico del cuneo della città in maniera decisamente più civile e regolamentata. Quello non mi piace dei forconi, se posso permettermi. Detto questo, è chiaro che il malessere del paese aumenti anche quando leggiamo cose di questo tipo. Allora, la Corte dei Conti ha chiesto, la Procura della Corte dei Conti, della Regione Lombardia ha contestato ai consiglieri regionali già appartenenti alla Lega Lombarda e al Popolo della Libertà un danno erariale di 500.000 euro che si aggiungono al pregiudizio di oltre 1 milione di euro già contestato nei mesi scorsi per rimborsi facili. Siamo a 1,5 milioni di euro. E una. Poi andiamo in Calabria, perché ogni tanto diciamo il paese è molto lungo, però delle volte sull'atteggiamento, diciamo, sui soldi pubblici, l'atteggiamento che hanno i rappresentanti del popolo sui soldi pubblici, il paese è molto molto vicino e molto corto. Allora, soldi delle tasse pagate dai cittadini onesti che invece che essere girati ai comuni venivano utilizzati per fare shopping su internet o giustificati con spese per false consulenze. Questa truffa l'ha scoperta il nucleo della Polizia Volontaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Non è una cifra piccola, sono 30 milioni di euro sottratti a 50 comuni calabresi a cui spettava il denaro versato dai cittadini. Sono 33 milioni di euro di tributi versati ai contribuenti finivano nelle tasche dei responsabili della Sogefil Riscossione SPA, una società cosentina operante nel settore della riscossione per conto degli enti pubblici, solo che non li girava, li utilizzava o per fare acquisti appunto su internet o per pagare false consulenze. Siamo sempre la solita storia. Invece, cambia la strategia difensiva del consigliere regionale sardo Carlo San Giust, sulla base che era scritto al PDL, è in carcere da un mese con l'accusa di peculato nell'ambito dell'inchiesta BIS sui fondi ai gruppi consigliari della regione Sardegna, che vede indagati complessivamente una cinquantina di consiglieri. Per una è arrivata già la condanna con rito abbreviato, mentre 19 consiglieri della prima inchiesta sono già a processo. Allora, a San Giust era accusato di aver speso soldi del gruppo consigliare per il suo matrimonio. All'inizio aveva negato, però adesso ha cambiato strategia. Perché? Perché così esce dal carcere, lo dico io. Infatti ha ridato al suo gruppo d'appartenenza, al PDL della regione Sardegna, oltre 25.000 euro più dei 23.340 contestati, perché la procura gli contestava che li avesse spesi per il suo banchetto di nozze. E a questo punto è una missione di colpevolezza, dovrebbero aprirsi le porte del carcere. Prima di lui Onorio Petrini, anch'egli del PDL, aveva ridato alla regione Sardegna i 25.000 euro utilizzati per l'acquisto di una serie di coppe e recipienti d'argento. E allora la legge sul finanziamento ai partiti. Allora, il premier Enrico Letta, dopo il Consiglio dei Ministri, ha detto: questo governo è nato e aveva tra le priorità l'abolizione del finanziamento con una riforma nuova, un nuovo sistema basato sull'atto volontario dei cittadini. Indicammo entro il 31 dicembre la data per fare questa riforma, era una priorità chiudere entro l'anno. E il disegno di legge del governo, il decreto del governo, recepisce il testo approvato dalla Camera. Il governo ha indicato la priorità della definitiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, dell'abolizione del regime degli attuali regime dei contributi e dell'attuale regime dei rimborsi, con una riforma e un nuovo quindi sistema basato sulla volontarietà dei contributi da parte dei cittadini. Il governo presentò un disegno di legge e avevamo indicato nella necessità di chiudere entro la fine dell'anno la priorità assoluta. Il governo approvò il disegno di legge, dopodiché il disegno di legge è andato in Parlamento. In Parlamento la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge con alcuni importanti miglioramenti, dopodiché però l'anno sta finendo e quindi abbiamo deciso di, avevamo indicato appunto la necessità di chiudere entro l'anno, perché sapete che il provvedimento ha una fase transitoria e quindi scavallare l'anno avrebbe spostato di un anno intero la fase transitoria, anche se avessimo dovuto spostare soltanto di qualche settimana. Per non venir meno all'impegno che avevamo assunto, il governo oggi ha assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, quindi da oggi è legge, da oggi è legge, e il regime attuale dei contributi ai partiti. Il decreto legge è il testo della legge approvata dal ramo del Parlamento, cioè dalla Camera. Allora, vediamo che cosa prevede anche questo decreto legge per l'abolizione del finanziamento dei partiti, che diventerà volontario. Vedo che c'è chi mi chiede, ma allora per chi dovremmo votare? Ce lo dica lei, ma figuratevi se mi metto a dare indicazioni di voto. Ognuno vota sulla base della sua coscienza, dell'idea che si è fatto. Ho solo detto che le scorciatoie, capisco il mal di pancia, capisco tutto, ma le scorciatoie non portano a nulla. Mi dispiace, anch'io, se bastasse un blocco stradale per cambiare il paese parleremo di altri temi. Quindi non si riescono a fare le riforme più normali. Comunque, vediamo cosa prevede l'abolizione del finanziamento dei partiti nella forma che fino adesso conoscevamo. Ve l'ho spiegato sempre il Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Ricordo anche i contenuti del nuovo sistema. Sono contenuti che assegnano tutto il potere ai cittadini. Il cittadino che vuole dare un contributo a un partito lo può fare o attraverso il 2 per 1000, quando fa la dichiarazione dei redditi, oppure attraverso un sistema di contribuzioni volontarie con una defiscalizzazione. Aggiungo anche, perché su questo c'è stata molta polemica e tantissima disinformazione in passato, nei mesi scorsi, che il sistema del 2 per 1000 è un sistema che non frega il cittadino. Il sistema del 2 per 1000 funziona in una situazione nella quale, se il cittadino non opta, quindi non sceglie Stato o appunto partiti, il contributo, il 2 per 1000 stesso, cioè l'inoptato, rimane allo Stato. Quindi è un sistema che dà tutto il potere ai cittadini. E poi c'è anche, con la nuova disciplina sul finanziamento dei partiti, c'è anche l'obbligo della certificazione esterna dei bilanci dei partiti politici. Non che questa sia una garanzia, però insomma è già un passo in avanti. Così rispondo anche chi mi dice: ma lei una volta non era critico con l'agenzia di rating? Certo che sono critico, sono ancora molto critico, ma non è che ogni volta posso aprire un fronte di critica con Standard & Poor's, Moody's e Fitch, e soprattutto con i loro azionisti. Però, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Domanda molto facile: ci siamo stavolta? Perché poi sono iniziate ad arrivare varie precisazioni, il provvedimento sarà fatto a scaglioni. Ci siamo o non ci siamo? Per quanto è anche simbolica, non voglio dire che da qui risolviamo i problemi del paese, però insomma, sul finanziamento dei partiti. È un passo in avanti, complessivo, che mi sembra importante. Poi dovremo vedere bene i dettagli, perché su questa materia le sorprese non si possono mai escludere. Va anche detto che il decreto è un decreto legge che poi andrà convertito in legge, e quindi diciamo che non finisce proprio qui la partita. Però certamente è un segnale, perché è importante, perché nei giorni scorsi già si era manifestata l'idea di rinviare tutto al 2014, e quindi tutti i tempi di questa operazione, anche piuttosto complessa perché c'è un periodo di transizione prevista, sarebbero slittati in avanti. E diciamo, questo è un po' l'effetto del dopo Renzi, che politicamente ha dato un po' una scossa complessiva alla politica, e il governo ha deciso di fare questo passo, confermando tra l'altro un impegno che aveva preso, cioè entro il 31 dicembre del 2013. Quindi, se ho ben capito, a questo punto tu puoi la possibilità di versare il 2 per 1000 o di fare anche un contributo volontario superiore, inferiore, questo non cambia, però non c'è più l'automatismo. Esatto. Questo varrà a partire da quando, però, Guido? Perché io inizio a vedere un po' di agenzie anche diverse, e soprattutto, secondo te, con questo chiudiamo il capitolo del finanziamento ai partiti, cioè il messaggio passa e passerà, oppure Questo è un cambio di rotta anche del governo che un po' su questo, diciamola tutta, aveva nicchiato anche perché preso da problemi di tenuta della maggioranza negli ultimi mesi. Guido. Guarda, sicuramente c'è un periodo di transizione, io se lo ricordo quale se era il 2016, diciamo, come orizzonte. Come date, sì, come orizzonte finale. Come orizzonte finale, quindi questo è un dato di fatto. È un altro dato di fatto che la situazione dei partiti al momento, dal punto di vista delle loro casse, è una situazione difficile, in particolare quella del PD, ad esempio, che diciamo se oggi venisse troncato di netto il finanziamento pubblico dovrebbero chiudere i battenti, e quindi diciamo che l'operazione mi sembra, viene stabilito un principio rigoroso che è quello di dire chiudiamo questa pagina con il finanziamento pubblico dei partiti. Mi pare che però sul discorso dei rimborsi ancora continuerà, diciamo, in parte. È quello il problema, sì. E anche se posso dirla tutta, si poteva avere un po' più di coraggio. Ho capito che il PD è in difficoltà, ma posso anche dirla, chi se ne frega, nel senso. Cioè, non è che siccome c'è un partito, in questo caso il PD, che se gli levo il finanziamento farà come molte imprese che quando vanno in banca si sentono rispondere no grazie, troverà canali sostitutivi, gli si può dare un periodo di transizione. Mi sembra un po' tardi il 2017, cioè arrivare esatto. A variare il 2017. Cioè, se questi sono i tempi della politica, abbiamo materiale da qua ai prossimi 10 anni. Sì, non so. E poi il meccanismo del rimborso è un meccanismo che noi sappiamo che è stato, diciamo, la chiave che è servita a scardinare. Bravo, il referendum. Il risultato del referendum, certo, dove gli italiani avevano già bocciato, cioè non doveva esserci più il finanziamento pubblico dei partiti. Quindi arriviamo con molto ritardo. Certamente, ripeto, è un passo in avanti. Però, insomma, io vorrei attendere anche i dettagli, diciamo. No, resto un po' basito sulle date e sono d'accordo con te, perché con quello che noi vediamo io non so cosa succederà nel 2016 o 2017, chi ci sarà al governo. Cioè, fai questo finanziamento, elimina questo finanziamento, concedi piuttosto ai partiti un anno di tempo per adeguarsi. Vabbè, hai un anno di tempo per trovare soluzioni, canali di finanziamento alternativi. Magari anche il PD, no, può rivolgersi alle banche in maniera trasparente, non controllare le banche, ma rivolgersi alle banche, giusto? Visto che qualcuno qua continua a scrivere sul Monte dei Paschi. Rivolgersi alle banche, però bloccare tutto e mandare tutto al 2017 sa un po' di presa così, in giro. Voglio dire, è una fine di un sistema, ma indifferita. È un sistema che non muore mai, però. Cioè, altro che eutanasia, questa è la morte più lenta di un sistema nella storia biologica dell'umanità. Adesso dal 2017 va bene, 2017 i rimborsi elettorali, cosa ne vogliamo fare? I rimborsi per i consigli regionali, da cui poi è nato il magna magna che stiamo descrivendo, e a chi mi dice che cito solo il PDL, ma si vada a riascoltare le puntate di Focus Economia in cui abbiamo raccontato tutte le spese pazze della regione Emilia Romagna, così si mette il cuore in pace e capisce che non è sempre Guelfi o Ghibellini qua, è onesti ladri, punto, non sinistra o destra. Comunque, resta con noi Guido, devo chiederti ancora un paio di cose, ho il meteo e la pubblicità però. Focus Economia. Ci sono misure significative poi che riguardano il campo assicurativo dell'RC Auto. Avevo citato anche questo nel discorso mercoledì in Parlamento. Interveniamo con appunto un articolo del decreto legge che avrà come effetto il calo dei costi dell'RC Auto per i consumatori e un calo delle frodi. Sappiamo tutti benissimo che in Italia sono collegati il tema delle frodi e i costi alti per i consumatori. Questo intervento sarà un intervento a favore dei consumatori, importante, significativo. Credo che sia una delle materie sulle quali da troppo tempo si aspettavano degli interventi. Sono interventi importanti che serviranno al sistema delle imprese, ai piccoli imprenditori. i titoli essenziali. Noi interveniamo con una forte riduzione del costo delle bollette energetiche. Il costo dell'energia è uno dei danni peggiori alla competitività delle nostre imprese, troppo alto il costo dell'energia in Italia. C'è un intervento molto significativo di riduzione del costo delle bollette, c'è un intervento importante, come avevo promesso, di credito d'imposta per la ricerca, che riguarda il sistema, per l'appunto, delle imprese. È un credito d'imposta per la ricerca che serve, per l'appunto, per incentivare tutti coloro che vogliono investire in questo campo, in questo settore. Queste due delle iniziative prese oggi dal Consiglio dei Ministri, sia appunto sul fronte RC Auto e anche sul decreto destinazione Italia, per, ci auguriamo, dare fiducia a piccole e medie imprese. Guido Gentili, nel salutarti, però insomma io ho la sensazione, ma non voglio essere distruttivo o comunque sempre negativo, però ho la sensazione che manchi ancora, cioè, l'elemento di scossa, sono quasi eufemistico, cioè va tutto bene il decreto destinazione Italia, va bene anche, però insomma a fronte di un crollo dei prestiti delle banche e delle imprese, di consumi che poi racconteremo della Banca d'Italia a meno 9%, del mattone che per la prima volta dal 95 perde di valore da quando esistono le serie storiche, mi sembra che fare una legge sul finanziamento dei partiti che entrerà in vigore a fine 2017 e avere misure, misurine, insomma, l'effetto scossa io non lo vedo, però prego. No, è così, esattamente così. Direi due osservazioni. L'effetto scossa non c'è sicuramente, e questo perché le varie provvedimenti che vengono adottati sono in sé, anche vanno nella direzione giusta e per questo vanno valutati positivamente, ma ovviamente non danno quella scossa che serve, per restituire fiducia nel Paese. E il secondo elemento che mi pare importante è il fatto che non solo non c'è la scossa, ma che si arriva sempre con il fiatone in ritardo, cioè si arriva quando ormai anche l'effetto annuncio è esaurito da tempo, e quindi questo contribuisce secondo me ad alimentare un po' quella sfiducia che c'è sul da farsi, sui provvedimenti che vengono annunciati da tempo, poi arrivano e arrivano delle piccole quote poi in porto, perché ricordiamo che di tutte le misure che sono state adottate dal governo Monti prima e dal governo Letta poi, mancano, come hanno dimostrato anche le nostre indagini, 465 decreti attuativi. Quindi poi tutte queste piccole o grandi scosse devono misurarsi con la loro attuazione, che arriva molto in ritardo, e quindi questo mi sembra un meccanismo che si autoalimenta ed è molto pericoloso. Un po' più di coraggio, un po' più di coraggio, questo chiediamo anche noi. E poi, scusatemi se continuo a dirlo, ma la riforma della pubblica amministrazione, della burocrazia di questo paese, io continuerò a battere su questo tema, non si vede neanche l'ombra di questo, neanche l'idea, neanche il disegno legge. L'abbiamo chiesto anche ieri al capogruppo del PD alla Camera, Speranza, fate sto cavolo di riforma della burocrazia anche per le imprese. Imprese non vuol dire solo le grandi imprese, vuol dire anche l'artigiano, vuol dire anche il commerciante. Grazie a Guido Gentili. Il traffico, e poi invece due dichiarazioni del ministro Zanonato importanti sulle bollette, visto che dovrebbe arrivare un taglio per le bollette degli italiani da 850 milioni di euro. Poi anche una cosa marginale, ma fino a un certo punto, cioè le dogane saranno aperte 24 ore al giorno, e le autorizzazioni dei testi saranno anche in inglese, e poi ci sarà la possibilità di avere visti con facilitazioni, questo come misura a sostegno della internazionalizzazione. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Traffico. Focus Economia. Allora, un'ultima nota dal Consiglio dei Ministri, i soldi in meno per le bollette da 600 milioni dovrebbero diventare 850, mentre che crescono sostanzialmente grazie alla possibilità di spalmare nel tempo gli incentivi per il fotovoltaico, quindi 850 milioni in meno sul peso degli oneri nelle bollette degli italiani. Abbiamo inserito anche la possibilità per il fotovoltaico di prolungare il periodo di incentivi a fronte di un ribasso dell'incentivo. Sono 700 più 150 è la partita ritiro dedicato e portano 8,50 nel decreto di taglio della bolletta elettrica. Per la parte invece relativa al disegno di legge partiamo con il meccanismo dei bond, ovvero sia si emettono delle obbligazioni, queste obbligazioni saranno coperte, quindi non costituiscono debito. Vediamo come funzionano, se l'Europa ci dà la possibilità di operare in questa direzione senza considerarlo deficit o debito, proseguiremo per ridurre ulteriormente, non è che si possa fare più di tanto, perché ad un certo punto poi il costo diventa eccessivo, per ridurre un altro po' la bolletta elettrica. E però, come diceva anche, anche poco fa Guido Gentili, la sensazione è che ci sia comunque più annuncio che arrosto, per cui vedremo se e quando potremo. È inutile fare conferenze stampa per dirci che poi il finanziamento ai partiti lo levate come volontario dal 2017, da fine 2017, ma porca miseria, poi diventa anche difficile, no? Chiedere rispetto delle modalità di tutto quando la sensazione è una presa per i fondelli. Allora io le tasse te le pagherò con calma dal 2017, ma di che cosa stiamo ragionando? Ciao Condina, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Allora non parliamo con te di finanziamento ai partiti, allora Milano io ha chiuso. Io ero rimasto che l'avevano tolto. No, dal 2017, dal 2018. Cioè. Non ho seguito l'attualità allora. L'attualità mica tanto, qua stiamo parlando del futuro. Allora, più che dell'attualità, magari fosse l'attualità. Parigi meno 0,20, Francoforte meno 0,12, Londra invariata. Euro su dollaro a quota 1,3730. I titoli, Monte dei Paschi, partiamo da lì, meno 3,30%, continua il braccio di ferro tra Viola Profumo contro la Fondazione Monte dei Paschi. Eh sì, assolutamente, perché qui c'è la sostanzialmente ci sono i manager che si rendono conto del fatto che la banca ha bisogno di un'iniezione di capitale subito, 3 miliardi, bisognerà farla a gennaio, invece c'è la fondazione che ovviamente vuole posticipare, vuole nel frattempo cercare un acquirente per la propria partecipazione, perché ovviamente un aumento di capitale abbasserebbe in maniera significativa il valore di quella partecipazione e quindi si consuma un braccio di ferro che di cui la banca non giova chiaramente, perché c'è bisogno di capitale subito e gli operatori la puniscono a Piazza Affari. Gli altri titoli invece oggi andati male sono Buzzi Unice meno 2,60, G-Tech meno 2,30%, Prismi meno 1,40, bene Autogrill più 3,60. Adesso ne parliamo, o meglio, dopo il GR. Ha ragione chi dice che comunque la spinta sul finanziamento ai partiti non è arrivata solo da Renzi, ma anche dal Movimento 5 Stelle. Avete ragione. Ed è giusto precisarlo, che comunque la spinta politica è arrivata anche da lì, non certo dal tacchino che ha anticipato il Natale, il GR e poi di nuovo in diretta. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso continuiamo con l'approfondimento di borsa. Ciao Condina, abbiamo già citato il caso Monte dei Paschi di Siena. Oggi invece bene Autogrill, che era qualche seduta in difficoltà su questa cosa delle possibili calo delle vendite negli Stati Uniti, ma anche altre, diciamo, variabili. Oggi fa più 3,60%. Ma sì, un bel rimbalzo oggi per Autogrill. Ieri era stato il peggior titolo del FTSE MIB con un rosso del 3,2%. Oggi, come giustamente accennavi tu, insomma, poi si fa anche c'è anche un legame con la questione del, appunto, del business americano, perché sono rimbalzate un po' tutte le società esposte sugli Stati Uniti. Per esempio Luxottica ha guadagnato il 2,8%, la stessa Campari più 2% tra i migliori titoli, quindi sostanzialmente torna anche un po' più di fiducia su quelle aziende che sono più esposte oltre oceano. Mediobanca, le parole di Bolloré sul nuovo socio internazionale più 1,35%. Eh sì, Bolloré annuncia, dice che c'è un nuovo socio, un investitore estero pronto ad aggiudicarsi una quota di questa portata della banca, in più si dice pronto, sempre se si troverà insomma la quadra, ad incrementare la propria partecipazione dal 5 all'8% e ovviamente tutto questo insomma va a favore del titolo. Altro titolo che bene si è mosso oggi, oltre a Luxottica più 2,80, Snam Rete Gas più 2,75%. E qui invece ci sono le indiscrezioni di stampa diffuse oggi su una possibile cessione di una quota di minoranza che potrebbe andare dal 30 o fino al 49% della controllata Italgas, un'operazione non certo trascurabile perché potrebbe portare nelle casse di Snam fino a 1,7 miliardi, un'iniezione di liquidità che ovviamente ha subito scatenato gli acquisti in borsa sulla società. Negativa invece Buzzi Unicem che perde il 2,60, Gitec il 2,35, Prismian l'1,5 come Stima Microelectronics e Ansaldo STS. Il Banco Popolare perde l'1,20%, tra chi si è mosso bene Mediolanum che recupera il calo più 2%, parzialmente recupera, Campari più 2, Fondiaria SAE più 1,76% e A2A più 1%. Allora Mediolanum ma anche A2A. E su Mediolanum, dicevi giustamente, recupera parzialmente quello che aveva perso qualche giorno fa quando Fininvest, che è l'azionista di controllo, aveva collocato circa il 6% del capitale, come avviene spesso in queste operazioni, il giorno dopo il collocamento il titolo crolla, in quell'occasione aveva perso più del 6%, poi due sedute in cui ha recuperato parte del terreno perso. Per A2A è un'altra seduta importante di rialzo, arriva vicino a quota 0,82 euro, qui si sono definite con esattezza le modalità con cui i due comuni, Milano e Brescia, che sono i soci di controllo, metteranno sul mercato nel 2014 una quota del 5% e quindi il mercato è un po' più tranquillo su questo tema e sono tornati gli acquisti. Ancora sotto i riflettori Pirelli oggi, anche perché ha ceduto la divisione Steel Cord, no? È vicina alla cessione. Hai ragione, è vicina alla cessione, poi il titolo però si è fermato e ha chiuso invariato. Su Telecom anche qui vedo pochi movimenti di listino, meno 0,30, anche se c'è molta attesa per l'assemblea. Fuori dal listino principale, così andiamo tra i migliori e i peggiori, che è successo a KR Energy, più 17%, miglior titolo in assoluto? Ma ieri ha presentato le linee strategiche di quella che dovrà essere l'espansione e lo sviluppo dei prossimi anni, tra queste c'è anche la formazione, la firma per una joint venture con lo sceicco di Abu Dhabi e insomma da questa joint venture, che poi sarà partecipata al 49% da KR Energy, prevederà la costruzione di due impianti per energia rinnovabili in loco, quindi ad Abu Dhabi, insomma comunque uno scenario di espansione che il mercato ha apprezzato. Ricordiamo comunque che stiamo parlando di un titolo che ha una capitalizzazione molto, molto risicata, quindi bastano anche pochi acquisti per muovere il titolo con performance importanti. Ancora Seat Pagina Gialla Risparmio più 6%, Mondadori più 5,40%, CIR più 5,36%. Fronte opposto invece Caleffi meno 6,23%, Eurotech meno 4,51%, SNAI meno 5,90%. Grazie e buon fine settimana a Ceo Condine e ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Buon weekend a voi. Allora, vedo molti messaggi sul finanziamento ai partiti, il contributo volontario. Allora, a parte il fatto che se ne parlerà nel 2018 e quindi uno potrebbe dire ma di cosa stiamo parlando, ma soprattutto contributo volontario del 2 per 1000 con la possibilità di detrarre questa contribuzione. Devo dire una cosa da questo punto di vista, molti scrivono: ma perché il finanziamento ai partiti non si dà solo in fase di campagna elettorale? Quello riguarda il tema dei rimborsi, e lì obiettivamente è vero, il rimborso deve essere dato solo quando tu hai la campagna elettorale, non il rimborso annuale. Segnalo anche lo scontro tra Beppe Grillo e Letta. Ha detto infatti Beppe Grillo: per rinunciare ai finanziamenti pubblici è sufficiente non prenderli, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato a 42 milioni di euro. Il decreto legge di Letta è l'ennesima presa per il Sfondelli, dice un'altra, uso un'altra espressione, è l'ennesimo tweet. Anche perché, continua Grillo, il PD ha incassato a luglio la rata di 91 milioni di finanziamenti pubblici insieme agli altri partiti, li restituisca, e in base al tetto approvato dalla Camera e fatto oggi proprio dal CDM, un privato che potrà sostenere un partito non potrà donare più di 300.000 euro l'anno e godrà di detrazioni al 37% tra i 30 euro e i 20.000 euro e al 26% tra i 20.000 e i 70.000 euro. Le spese per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica saranno detraibili al 75% fino a un massimo di 750 euro l'anno, e poi i partiti potranno raccogliere fondi anche con gli SMS o con altre applicazioni dei telefonini, va bene. E poi via libera di Montecitorio anche all'aumento dei fondi per la cassa integrazione dei dipendenti dei partiti politici. Ai 15 milioni già previsti se ne sono aggiunti 8,5 per il 2015 e 11,20 per il 2016. Sì, dico, va benissimo che vi siano anche i fondi per la cassa integrazione dei dipendenti dei partiti politici in aumento. Avremmo voluto vedere la stessa celerità anche sul finanziamento ai partiti. Devo dire, non spetta mai dirlo, che in effetti se veramente uno vuole rinunciare al finanziamento ai partiti, se può rinunciare, lo può fare anche come ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ripeto, se c'è un problema nelle casse di alcuni partiti, che non è attribuibile ai cittadini italiani ma alla gestione o mal gestione del partito stesso, cito il PD ma vale anche per altri eventualmente, questa cosa si può organizzare. Nessuno vuole portare in bancarotta un partito, però un conto è rientrare da un debito, come capita a qualunque cristiano, a qualunque cittadino, a qualunque impresa che è esposta a un debito. È un conto è dire che sulla base di questo motivo, o dare il sospetto che per questo motivo spostiamo la legge sul finanziamento dei partiti al 2017, poi vedremo che governo ci sarà, che modifiche interverranno e quant'altro. Mi dispiace dirlo, però non è credibile un taglio del finanziamento ai partiti fatto con questa tempistica, non è credibile. Poi direte che la stampa ce l'ha col governo Letta, ma non è credibile. Fine, ho capito che recepisce la proposta del Parlamento, e non è credibile neanche il Parlamento a questo punto. Quello che invece è credibile, nel senso che è un dato della Banca d'Italia, è che mentre qui ci trastulliamo su 2018, 2017, 2 per 1000 e quant'altro, per la prima volta dal 1995 il valore complessivo delle abitazioni delle famiglie italiane, quindi quanto valgono tutte le case che noi italiani abbiamo comprato, magari anche spesso con un mutuo, è calato. A fine del 2012 valeva complessivamente il patrimonio immobiliare degli italiani, delle famiglie italiane, valeva 4.832 miliardi di euro, vuol dire sostanzialmente 194 miliardi in meno rispetto a un anno prima, il 4% in meno di valore complessivo. E questo ribasso è continuato anche nei primi sei mesi del 2013, un altro 2% di calo, ossia a 4.745 miliardi. Ora, capiamoci subito, questo è il valore complessivo delle case delle famiglie italiane. In molti casi il calo è stato più significativo, in altri magari non si è avuto un calo del valore, gli immobili di pregio e quant'altro. Però deve essere chiaro a tutti, a partire dalla classe politica, che è la prima volta che il valore degli immobili delle famiglie italiane cala dal 95. Ora, vogliamo renderci conto che la stessa Banca d'Italia, e non diciamo qualche gruppo, qualche movimento vario, la Banca d'Italia dice: attenzione, dal 2007 adesso la crisi ha eroso la ricchezza delle famiglie italiane di 9 punti percentuali, siamo quasi al 10%, per cui da 1000 euro di potere d'acquisto si è sceso a 900 euro quasi. Di questo vogliamo prendere atto o dobbiamo occuparci dei tempi biblici con cui i partiti riescono a essere gestiti come qualunque società privata pur avendo un ruolo diverso? Va bene anche le detrazioni, alcuni scrivono che le detrazioni sono eccessive, va bene. Non ho capito perché se io do dei soldi a un partito fino a 20.000 euro posso detrarre il 37% e fino a 70.000 euro posso detrarre il 26%. Un'agevolazione, ma perché? Io do dei soldi a un partito perché credo in quel partito, penso che faccia le lotte politiche giuste, penso che mi rappresenti. Vuoi darmi un'agevolazione? Mi sembra un po' alta la detrazione al 37% fino a 20.000 euro. Mi sembra un po' altina per essere un finanziamento del partito. Ma va bene anche così. Però sui tempi non ci siamo. Traffico e poi ragioniamo del mercato immobiliare italiano. Focus Economia. Allora, stando agli ultimi dati che abbiamo a disposizione, sono quelli dell'Istat, quasi l'80% degli italiani hanno una casa, vivono in una casa di proprietà. Al sud sono l'85%, al centro l'80% e al nord il 75%, con una media di mercato di un'abitazione che va più o meno di 180.000 euro. Noi siamo tra i paesi in cui le famiglie proprietarie hanno la percentuale più alta, ci supera solo la Spagna e a livello siamo prima dell'Irlanda, della Norvegia. Pensate che in Austria e in Germania le famiglie proprietarie di un'abitazione sono la metà, sono il 45%. Dottor Mario Breglia, responsabile dell'Istituto di Ricerca Scenari Immobiliari, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cerchiamo di non cadere nella trappola solo della media, perché il dato aggregato è molto chiaro. Per la prima volta dal 95 il valore complessivo delle nostre case cala. Ma quanto cala poi nei vari segmenti in cui voi dividete di solito il mercato immobiliare, quindi pregio, semipregio, abitazione? Perché non vorrei che dietro questa media poi si nascondesse la media di Trilussa, prego. Sì, infatti è così. Il dato aggregato, diciamo, fa impatto, però va letto con grande attenzione e disaggregato, come giustamente lei diceva poco fa. Questa è una media che cerca di mettere insieme quello che è l'andamento, diciamo, nelle zone centrali delle città italiane o delle case di pregio, che invece hanno avuto un andamento, diciamo, nettamente opposto, anzi in questi anni hanno retto bene alla crisi e insomma sono stabili, addirittura piccoli aumenti. E ad esempio le case nuove realizzate negli ultimi anni, che hanno scarsissimo mercato e si vendono con estrema difficoltà. E quindi questo è un... Ma anche quelle di pregio, nuove o solo quelle nuove? Pregio nuovo ce ne sono poche, soltanto in alcune città ci sono alcuni interventi di alta qualità. E negli ultimi anni sono state realizzate moltissimi alloggi nuovi o nei piccoli centri o nelle periferie delle grandi città, e queste sono le aree più svantaggiate. Però leggendo il rapporto della Banca d'Italia uscito oggi, che è molto variegato, ecco, guardando solo il titolo, come quello che ho fatto prima, lui pensa che siamo diventati più poveri, cioè si è indebolito il valore delle case, gli italiani più poveri. In realtà c'è un capitolo, ed è molto interessante, di questo studio, che fa un confronto internazionale, perché noi dobbiamo anche, diciamo, confrontarci con gli altri, e ci sono due elementi che rapidamente voglio illustrare. Il primo: noi abbiamo avuto un calo nel valore degli immobili, diciamo così, nella ricchezza reale, ma che è inferiore rispetto a quello che è capitato in altri paesi europei, inferiore rispetto alla Francia, non parliamo della Spagna, e in linea con la Germania e la Gran Bretagna. C'è stato un calo molto più forte negli Stati Uniti e in Giappone nello stesso periodo di tempo. Questo è il primo elemento, quindi da noi è calato il 10%, negli altri paesi o in linea o di più. Poi il secondo elemento importante è il rapporto tra attività reali, quindi le proprietà, e il reddito disponibile delle famiglie. Questo su un arco di tempo di 14 anni, tra il 2000 e il 2011, quindi 11 anni, scusate, ne deriva che le famiglie italiane rispetto al reddito continuano non solo a mantenere la stessa ricchezza netta, ma addirittura hanno avuto un piccolo incremento diciamo che diciamo per sintetizzare, ogni famiglia, anche qui ovviamente è una media statistica, ogni famiglia italiana ha una ricchezza che è 7 volte il reddito annuale. Includendo l'abitazione, chiaramente. Includendo per l'85% l'abitazione, il resto sono terreni, gioielli e così via. Nel 2000 la ricchezza era 7,15 volte il reddito di allora, oggi è 7,87. Gli Stati Uniti, per fare un confronto, la famiglia aveva una ricchezza di 6 volte il reddito nel 2000 e oggi ce l'ha di 5 volte. Quindi hanno avuto questo come si coniuga con quanto ricordavamo però sul calo del valore del patrimonio, Breglia? Beh, questi sono calati i valori dei patrimoni, ma sono calati anche i redditi, purtroppo. Ecco, il trucco ci sono è questo. Molti elementi a tenere presente, ecco, quindi sono calate le attività reali, meno che in altri paesi, ma in linea diciamo con l'Europa, e da noi sono calati un po' di più i redditi rispetto agli altri paesi. Quindi diciamo abbiamo un doppio elemento che può calo della ricchezza, ma anche calo sì, dei non è, redditi. Non è che medi. Mi senta molto meglio, nel senso che se ho ben capito. Adesso ho capito. Però nel confronto internazionale diciamo, siamo calati meno. Vabbè, una volta tanto non siamo in fondo alla classifica. Però il punto è che lei dice: continua a essere la ricchezza pari a 8-7 volte il reddito. Il problema è che se il mio reddito da 2000 è sceso a 1000. Esatto, è calata anche il valore del mio immobile. Magari il rapporto tra ricchezza intesa come patrimonio e il mio reddito prodotto resta uguale, ma resta uguale perché siamo scivolati tutti e due, no? Cioè, come esatto. Se io e lei facessimo un salto all'indietro, tutti e due, lei resta più alto di me, ma siamo calati quindi complessivamente. Questo che cosa vuol dire? Diciamo, mi allaccio un po' sui ragionamenti precedenti sulla politica. È chiaro che non si può aumentare con un colpo di bacchetta magica il valore degli immobili, anzi no. La politica lo sta abbassando aumentando la tassazione, quindi diciamo diminuendo la propensione all'acquisto della casa, mentre il lavoro della politica dovrebbe essere quello di fare in modo che che aumentino i redditi. Ma quali su questo proprio con chiudiamolo dove siamo partiti. Faccio notare che oggi il ministro Saccomanni ha difeso a spada tratta l'IMU, nel senso che ha detto non c'erano alternative, adesso riprendo anche Saccomanni sull'IMU, non c'erano alternative a far pagare una parte di IMU anche ai comuni. Allora, volete sapere cosa è successo sulle detrazioni per le donazioni alle Onlus in riferimento a quanto si può detrarre? Allora, sono le nuove percentuali sono fissate al 24% e al 26%, con un limite massimo su cui calcolare la detrazione pari a 2000 euro. Adesso io dico una cosa e poi ci salutiamo qui. Mi dovete spiegare perché, ma me lo dovete proprio spiegare voi partiti, perché se io verso fino a 20.000 euro a un partito ho il 37% di deduzione, ma se verso 2.000 euro a una Onlus ho al massimo il 24% poi 26% di deduzione. Non solo, se io verso fino a 70.000 euro a un partito ho ancora il 26% di detrazione, ma non ce l'ho più sopra 2.000 euro per una Onlus. Se vogliamo andare avanti così, poi date la colpa a noi e alla demagogia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.